Le sconfitte brucianti al primo turno delle comunali di Venezia e Lecco dei ministri Brunetta e Castelli dimostrano tre cose. La prima è che ogni realtà locale fa storia a sé, gli elettori sono liberi e decidono di volta in volta in base ai loro sentimenti e ai loro interessi. Secondo, nulla è irreversibile, il Nord non è di nessuno, nemmeno della Lega che vi ha appena ottenuto una grande vittoria, è di chi sa interpretarne meglio le esigenze nelle varie realtà territoriali. Terzo, non tutto è liscio nel rapporto tra il partito di Bossi e il Popolo della Libertà. Se un ministro in carica, Brunetta, accusa la Lega di averlo cinicamente abbandonato a Venezia, cioè di non averlo votato nello stesso momento in cui sosteneva con entusiasmo il suo Zaia per la carica di Presidente della Regione, vuol dire che non è tutto oro quello che luccica. L'episodio non va esagerato, ma nemmeno occultato. È il segno che la relazione fra i due grandi partiti della maggioranza va costruita giorno per giorno con pragmatismo. Berlusconi e Bossi hanno interesse a procedere uniti e a mettere in cantiere le riforme di cui il Paese ha urgente bisogno, ma nulla è scontato e nulla è per sempre, specie quando l'ambizione è niente meno quella di ridefinire la fisionomia istituzionale di un paese lacerato. Stefano Folli, GR24, Il Sole 24 Ore.